cattoliche, perché nella strategia della vita coetanea in tutti che dovrebbe, che io personalmente non ho letto ancora, non so se qualcuno di voi ha letto questa strategia della disabilità europea, magari può il documento produrlo in modo che lo leggiamo tutti. Questa strategia europea mi sembra, diciamo, di aver capito che prevede alcuni obiettivi, perché sono obiettivi, però potrebbe darsi non prevede invece l'abbattimento delle barriere architettoniche, che invece è previsto in qualche altro tipo di strategia, perché si tratta comunque di interventi di opere pubbliche e infrastrutturali. Allora, la prima domanda era appunto quella di reperire le risorse, quindi fare un censimento delle risorse già attuate e quindi inviare ai comuni che hanno già risposto che non sono a disposizione poi le risorse, perché non hanno speso queste risorse. Questo ovviamente in collaborazione con i nostri consiglieri regionali, i quali poi dovrebbero fare le interrogazioni a livello regionale, proprio per capire questo. Vincenzo, sei in linea, vedi che io ti ho già aggiunto, diciamo, alla conversazione, ma chiudo qua, altrimenti non faccio decadere gli altri, ok? Ti sto aggiungendo all'altra conversazione. Chi ti risento? Ti aggiungo, diciamo, all'altra conversazione. Ecco, vai Orfeo, stava dentro. Dici Teresa? Non ho capito, Teresa. Non so se è arrivato quello che ho detto, perché a un certo punto. No, Orfeo, perché praticamente mi stava chiamando un altro signore. Stava chiamando un altro signore, Vincenzo Frattini, che voleva entrare. Allora glielo ho detto, guarda, io li sto aggiungendo alla conversazione. Allora, va bene, ok. Dici, quindi abbiamo perso praticamente solo di questo incontro e di questa mia proposta, certo, di allargare il campo per fare un censimento al contrario, cioè sapere se effettivamente sono stati oppure no spesi, quanti sono stati i soldi che sono stati spesi fino adesso, certo, per l'abbattimento. Ovviamente una domanda potrebbe essere retorica, cioè nel senso che è stato speso pochissimo oppure niente, oppure è stato speso qualcosa, e quindi a cercare la traccia economica di questa. Non posso dire, a livello regionale già è stato, dice che il fondo è proprio bassissimo da quando ci hanno riferito i consiglieri, però adesso bisogna fare proprio un'indagine certa, partendo però, dicevamo l'altra volta, partendo prima dal comune, dall'ente locale, poi alla regione e anche in Europa, quindi vedere che potenzialità economica ci sarà e in base a questo poi anche, diciamo, intervenire, però bisogna fare un'indagine. Io da questa la premessa l'ho fatto, ho detto prima di tutto bisognerebbe sapere se il proprio comune che appartiene adesso, quanti comuni, 500, 600 comuni, cioè questa cosa dovrebbe essere fatta, però il problema è questo, che non ci sono più comuni che si una sostanza, perché noi siamo presenti a questa problematica. Allora io volevo investire per così dire l'onere della prova, cioè fare in modo che una volta conosciuti i fondi che già erano stati stanziati evidentemente dall'Europa per l'abbattimento delle barriere architettoniche o comunque all'interno di una strategia per la disabilità, quindi potrebbe darsi pure che non si tratti di opere destinate ai PEPA, ma all'interno di una strategia per la disabilità, vedere appunto quanti progetti sono stati avanzati dalla regione, perché probabilmente questi progetti non vengono avanzati per un duplice motivo, per perché devono essere richiesti, questi fondi devono essere richiesti dalle singole amministrazioni. Cioè il punto di partenza è la sensibilità delle singole amministrazioni che poi conquistano i settori, diciamo, centrali, regionali, i quali a loro volta sviluppano delle progettualità europee. Se ovviamente questo sappiamo che non avviene, allora dobbiamo investire appunto l'onere della prova, cioè dobbiamo fare in modo che si sappia che praticamente le amministrazioni, ma tutte le amministrazioni, perché è un problema regionale piuttosto che tutte le amministrazioni stanno indietro rispetto appunto alle cose che diceva Angelo, visto che ha citato la legge che fa riferimento ormai agli anni 90, quindi insomma l'emanazione della legge è addirittura. Ragazzi, un attimo che vorrebbe intervenire anche Ernesto Armoni, che mi sta accendendo un attimo la linea. Vai Ernesto. Dai Ernesto, benvenuto. Alza un po' la voce Ernesto. Alza un po' la voce Ernesto. In lontananza. Forse no, c'è, non so più se c'è qualcosa che non funziona a lui, hai capito? Sì. Non si sente. Si sente bassa la voce, Ernesto. Per cui non si sente. Vai Angelo, vai. Non si sente la voce, vai. Devo andare io? Sì, perché non lo riesco a sentire. Ma potevo, diciamo, precisare perché è utile fare l'indagine, come ha detto Orfei, e quindi ci dobbiamo unire in questo. Però diciamo che per quanto riguarda l'indagine, pensavo, non lo so se siete d'accordo, proporle ai nostri consiglieri regionali per fare un'indagine più specifica da dentro, eccetera, cioè vedere i fondi e tutto quello che abbiamo, no? E magari che anch'essi abbiano una continuità con i portavoce europei, in modo che, diciamo, per questa parte qui loro sono gradini. Io invece mi sarebbe piaciuto fare, diciamo, la richiesta, quella per, diciamo, per un fatto che non sono i locali pubblici, in particolare quelli del comune a norma. Quindi fare questa segnalazione. E in più, diciamo, fare questa segnalazione, protestare, manifestare, in modo che non ci sono, farci vedere, se no questi ci risponderanno sempre. I soldi non ci sono, i fondi, capitoli vengono distratti, eccetera, eccetera, però poi al sodo non si va. Non so se vi piace questa mia proposta, ma pensavo questo. Sì. Mi avete ascoltato? Certo. Non ho sentito, ma in effetti, giustamente, la base della richiesta dovrebbe essere una richiesta, noi l'abbiamo fatto, io perciò dicevo al nostro comune che ci ha risposto, quindi la prima cosa di chiedere al comune di appartenenza, alla circoscrizione di appartenenza, alla regione, alla provincia, insomma, se uno abita a Napoli, alla città metropolitana. Dopo la perché Napoli non è stata fatta, allora bisogna farla. Stiamo girando il protocollo che abbiamo fatto al comune di Donanziana, ce ne sono tantissimi in rete che hanno fatto il protocollo, vari comuni. Quindi uno fa questa richiesta nell'arco di, appunto per la legge sulla trasparenza, nell'arco di 90 giorni devono rispondere, ci aggiorniamo quando tutti hanno fatto questa richiesta e si va avanti. Questa è la base infatti ciò non toglie che contemporaneamente si sviluppa evidentemente una strategia più a basso raggio che coinvolga sia la regione sia l'Europa. Esatto. E però impegniamo anche i nostri portavoce, capito? Visto che stanno dentro le... Ma loro sono sicuramente impegnati a questo, però era per capire se tanti, magari, io non so adesso, le persone che sono collegate, gli amici che sono collegati, se hanno fatto oppure no, perché non lo so, chi di Bosco, chi di Napoli, non lo so, se hanno già fatto richiesta al loro comune, ci possono raccontare la loro esperienza, sarebbe importante questo, almeno secondo me. Qualcuno di voi ha fatto richiesta? No. Scusa, mi ha detto, in questo momento posso chiedere a cosa ti riferisci? Mi riferisco all'abbattimento delle barriere architettoniche che sono, riguardano, diciamo, le opere pubbliche e che sono oggetto di una legge ormai datata nel 1989 e che poi è stata ripresa nella 104. Ma quando la 1989, no? Sì, la 1389. Ragazzi, scusate, se ti chiedo. No. Scusami, Teresa, ma... come è il suo nickname per raggiungerlo? Scusami. Allora, spero. Me l'ha scritto su Messenger? Ma lo vedi, dai, scusami. L'attuazione della 1089 proprio in virtù della richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche che si trovavano all'epoca nel nostro condominio. E quindi ovviamente, diciamo, ho attuato un iter anche giuridico, rivolgendomi al giudice, più che altro per avere non tanto gli ostracismi che non sono previsti dalla legge, ma più che altro l'opposizione da parte del condominio nell'instaurazione del mezzo che permetteva chiaramente l'abbattimento del barile architettonico, quindi un elevatore. Tra l'altro, in effetti, questa azione io l'ho dovuta seguire diciamo, legalmente, perché in effetti diciamo, l'esperienza nostra del condominio ci ha portati praticamente in effetti alla instaurazione di questo elevatore unicamente di nostra proprietà, in quanto il condominio nella proprietà collettiva non voleva in effetti effettuare l'investimento. Quindi praticamente la legge cosa ti dice? Ti dice che tu puoi hai il diciamo l'obbligo di abbattere le barriere architettoniche, ma laddove ci sono i vincoli, laddove tu praticamente lo puoi fare in una proprietà comune oppure una pertinenza comune, gli altri non hanno l'obbligo della partecipazione. I disabili lo può fare a loro stesso. La legge, tra l'altro, diciamo, è chiara per quanto riguarda la necessità e l'obbligatorietà dell'abbattimento delle barriere architettoniche, però praticamente in effetti è diciamo non agevolante la necessità di fare questo ma proprio questo. Tra l'altro ci sono gli studi che tra qualcuno di voi a casa. Allora volevo anche informarvi per vostra conoscenza. Comunque è entrato mio fratello Salerno Giuliano anche in conversazione e poi anche Umberto Vini, il marito di Teresa del Giulio. Vai Salerno. Ciao Fabio, vai Orfeo. Ciao Fabio, vai Orfeo. Devo interromperti un attimo, facete prima. Certamente, certo, come no. Grazie. Allora, faccio questa precisazione perché la tua esperienza è molto utile e molto importante, perché precisa questo aspetto relativo alla restituzione dei fondi. Però l'obiettivo dei PEPA, così come io penso, diciamo, dovremmo prefiggersi in questa fase però istruttoria che stiamo preparando, che potremmo preparare, è quella là di verificare quella che è esattamente lo stato dell'arte per quanto riguarda i pubblici, nel senso che ovviamente tutte le attività svolte che secondo la presenza svolte anche molto bene nelle attività negli edifici privati sicuramente sono a carico attualmente nella singola attività del stabile. Però noi dovremmo vincolare questo discorso, perché appunto io dicevo prima, molto spesso i comuni fanno delle opere puntuali, sia nei confronti del disabile che si trova a casa o che fa una battaglia legale, speriamo che non lo faccia, non debba farla mai più, sia perché hanno una logica clientelare, cioè assolvono spesso a delle esigenze solo perché devono soddisfare chi batte di più i piedi oppure quella determinata persona. Ora, i PEPA, nella loro definizione del 1989, in effetti si svincolano da questa logica, giustamente, perché sono uno strumento di censimento sia delle situazioni che praticamente si trovano sul territorio, che costituiscono barriera, sia sono uno strumento di programmazione dell'eliminazione delle barriere, che non sono la eliminazione delle barriere, sono uno strumento progettuale di programmazione per la eliminazione delle barriere. Quindi si trovano in una fase che deve essere inserita all'interno della programmazione urbanistica delle città. C'è un problema di creazione di strumenti tecnici a cui devono ottemperare gli uffici tecnici comunali, spesso inadempienti, i quali dicono per fare un progetto, per fare una programmazione, ci servono appunto i soldi. Questa puntualizzazione, Valerio, perché riguarda un'opera che non è appunto la ricerca dei soldi per eliminare la rampa o per mettere l'ascensore nell'edificio pubblico, ma riguarda la ricerca di quelle risorse che servono per fare la programmazione e poi successivamente nella programmazione si evidenziano l'assenza o la presenza delle risorse. Tra l'altro poi più tardi posso dirvi le esperienze di alcuni comuni che hanno trovato comunque le risorse in un certo modo, se interessa la cosa. Un attimo solo, ragazzi, volevo soltanto... Ragazzi, chiedo scusa perché io in effetti chiaramente insomma avevo fatto una, diciamo, tra virgolette, una divagazione più che altro dell'aspetto privatistico dell'applicazione della 1989, ma mi rendo conto che in effetti insomma diciamo, il punto di partenza giustamente è la collocazione dell'argomento rispetto all'interazione tra diciamo abbassamento delle barriere architettoniche totali applicate dai comuni per le persone, gli edifici di natura pubblica, accessi pubblici. Quindi diciamo io in effetti ho affrontato soltanto l'esperienza della strada che poi porta diciamo in relazione il disabile a dover affrontare l'altra parte tornecotata, che chiaramente in effetti l'aspetto che non vedi in effetti nella vicenda prima. Scusami un attimo, siccome Saverio, scusami un attimo, siccome che stava Ernesto che era intervenuto prima e aveva avuto problemi di microfono, vorrei soltanto sentire praticamente se si è ripristinato. Ernesto? Senti adesso? Adesso sì, ti sentiamo. Scusa, prima non ti sentivamo, che cosa ci volevi dire prima? Vai. Perdonate un po' di No, ma comunque sai, non ti preoccupare, perché cioè, chiamando più persone, almeno io in video non vi sto vedendo, non so voi. Ah, ok, aspetta, sentiamo un attimo l'ingegnere Ernesto Armone, vai Ernesto. Allora, quello che vi volevo dire è fare una presentazione molto importante a tutti quanti voi. Chi progetta un'opera pubblica, chi progetta un edificio privato, è un ingegnere, un architetto o un geologo. Purtroppo, come dice a Napoli, il pesce puzza dalla testa. Se voi andate presso ingegneria a Napoli, se voi andate presso tutte le facoltà di ingegneria a Napoli e andate a chiedere tecnica delle costruzioni, andate a parlare di le legge 104 per quanto riguarda i disabili o altri, vi torceranno il naso. Questo che significa? Che dato che è un problema culturale, se il problema della applicazione delle regole che tengano conto dei diritti dei disabili non vengono presi in carico proprio da chi deve costruire, cioè alla fine l'ingegnere, voi state battendo una strada che non ha uscita. Qua bisogna imporre alle università e ai geologi che quando i loro iscritti non hanno fatto un corso per quanto sfasciano, per come si costruiscano palazzi senza barriere architettoniche, o come si fa un piccolo marciapiede, essendo presente dei problemi di Gennaro e Giuliano, non uscite fuori. I comuni, quando ricevono un progetto di qualcosa, lo approvano senza entrare nei termini dei progetti, purtroppo, perché non ne sono né hanno testa né hanno il tempo per farlo. La questione è che butta dalla testa. Io personalmente sono schifato da un fatto. Sapete che a Napoli l'ordine degli ingegneri, mi ascoltate tutti? Certo, Ernesto, vai tranquillo. Certo, vi sentiamo tutti, ragazzi. Doveva alle porte aperte, è un disabile. È una persona che si chiama il dottor Vinci, il professor ingegnere Vinci, come adesso chiamato lui, è un disabile. E quando si tratta di problemi di disabili, non è niente interessato, perché giustamente lui deve essere risolto. Lui sta bene, quindi. Quello è il problema. Che lui sa chi lo prende, chi lo porta, c'è la macchina speciale, tutte queste cose. No, il problema non me ne frega niente di quello che diciamo, cioè io vorrei che lui si prendesse carico che i suoi iscritti, circa qualcosa come vi dice i miei iscritti a Napoli e provincia, quando vanno a fare la progettazione di un marciapiede, si rendessero conto di che stanno pure persone che hanno difficoltà di scendere dal marciapiede, o cose di spiego. Quando va a fare un edificio pubblico, ci sono persone che non possono accedere all'edificio pubblico, per cui bisogna andare presso tutte le università e dire: scusate, caro presidente di ingegneria, mi fa vedere qual è la sensibilizzazione che hai nei confronti dell'applicazione della legge dell'abbattimento delle barriere, perché qua c'è una linea. Ma lui è il presidente, scusa, è il presidente questo dell'ordine degli ingegneri, Angelo, presidente dell'ordine degli ingegneri. Interazioni territoriali, cioè che significa noi la prima cosa che dobbiamo fare è attivare delle esperienze di nostra vita. Io per esempio sono due anni che ho incontrato la domanda per contenere lo scivolo, lo scivolo, cioè quindi praticamente in effetti la conformazione, l'adeguamento del marciapiede davanti allo stabile dove noi abitiamo, per creare praticamente l'accesso agevolato alla sede della carteggiata. Hai 87 anni, mio caro. Perché? Io vado di cui devi spiegare perché devo aspettare 87 anni e soprattutto io ti devo andare a denunciare, visto che considerate che la massima devo fare l'ho dovuta fare necessariamente in circoscrizione. La circoscrizione non mi potrebbe. Allora la colpa è di tuo fratello, la colpa è di tuo fratello. Ok, perfetto. È sempre colpa mia, ragazzi. Sì, perché non volete cambiare. Potete fare tutte le petizioni che volete. Si mettano il culo. Se voi dovete entrare nelle istituzioni per farvi capire, per farvi ascoltare, è inutile. O vai, perché io tengo a andare in istituzione. Bravi, vedi? E questo la pensa esattamente come me, Gennaro? Certo, certo, certo. Ragazzi, un attimo solo che abbiamo aggiunto anche Stefania Palermo. Stefania, un attimo solo. Ragazzi, un attimo solo. Stefania, ci sei? Ragazzi, un attimo solo, vorrei sapere soltanto se Stefania ci sente. Un attimo, Stefania. Ragazzi, sta anche Stefania Palermo in nostra compagnia. Sì, Stefania, è normale perché praticamente siamo 10 di noi e praticamente si annulla la multiconferenza video. Abbiamo qualcosa come circa 300 megabit. Ecco. Ragazzi, se disattivate il video, guadagniamo nella banda e riusciamo anche a sentirci tutti quanti meglio. Bravo. Vai Ernesto, scusami un attimo, Stefania in compagnia, un attimo solo, ragazzi un attimo solo che dico a Stefania che chi è in nostra compagnia. Stefania, ci sono Angelo Pivrisco, Antonio Greco, Fabio Vitrone, Orfeo Mazzilla, Saverio Giuliano, Ernesto Arnone, Teresa De Giulio, Vincenzo Frattini e Vittorio Ricciardi. Vai Ernesto. Vai Ernesto, vai. No, stavo chiedendo a Fabio se stesse in linea. Fabio sì, Fabio sta in compagnia di Teresa De Giulio. Vai Fabio, ma ci sei Fabio? C'eri quando l'Ordine degli Ingegneri ha fatto il simposio del battimento della barriera architettonica nell'ambito dei progetti da presentare presso i comuni? Ero presente quando lo dicesti questa cosa. Cioè, stiamo in quarto caso, perché il reperimento, la coscienza civile degli ingegneri del barriere architettonico non c'è stato, se ne fosse, ma tu comunque vado a mettere in dato che i disastri l'hanno fatto quando terminano le istruzioni, nella fabbrica e via dicendo. Questo non lo volete, perché la cultura possa cominciare a crescere, ci possa indicare un cammino, ci possa indicare un bene, ci possa indicare un bene, ma poi, 2000, un minimo c'è tutto altro, se vuoi una cultura, me lo dovete dire, io mi dispiace che me lo dici in napoletano, perché mi sembra che voi non volete capire. So, per quanto riguarda l'abbattimento, mi possono raccontare di i soldi sono stati stanziati per altre cose, soldi non ce ne stanno più, dobbiamo pensare da oggi al futuro. Per quanto riguarda invece come poter circumnavigare il problema, cioè di come abbattere le barriere architettoniche preesistenti, io Giuliano Gennaro glielo detto come fa? Con i POR, con i progetti, con i soldi dei fondi europei per la progettazione. Purtroppo, non è che Gennaro lo deve fare, noi siamo un gruppo, stiamo lavorando tutti insieme, non è che Gennaro. No, quello Angelo lo diceva a modo nel senso di consiglio, dice laddove che si entri in un'istituzione, cioè questo diceva Ernesto, è una delle funzioni a cui noi potremmo poi eventualmente. Io penso che così questo tipo di, già l'altra volta abbiamo affrontato questo tipo di problematica, se ne è parlato l'altra volta, però io voglio dire, non è che facciamo se no qua è una cosa che sembra di fare sempre la prima riunione. No, ma è una cosa che voglio farvi capire, ragazzi, guardate, quando io dico che è un problema, è che quando voi andate a parlare con un assessore, con un funzionario, con un dirigente, e voi siete i disabili, il dirigente, il disabile, l'assessore, vi vede, e ve lo dico tra virgolette, come un fastidio, ma si dà del legame. Ma a me non interessa che ci veda come un fastidio, noi dobbiamo avere la consapevolezza della necessità dell'applicazione della una delle funzioni principali deve essere la nostra capacità di giocare sulla nostra conoscenza e del dettaglio legislativo, di giocare alle responsabilità chi ha praticamente questa funzione. Allora, se ci sono delle normative che poi possono essere migliorate, sulle quali possiamo parlare di sensibilizzazione maggiore, però grave e mezzo, la sensibilizzazione avviene sempre da un atto traumatico e non soltanto da quella che è la visione della consorteria popolare. Cioè, voglio dirti, se io non attacco un sindaco, se io non attacco il presidente di circostanza, se io non attacco un'istituzione che chiaramente è preposta a fare una determinata cosa e lo deve fare per legittimità, non perché praticamente i disabili sanno o non sanno che hanno visto, non hanno visto. Ci sta l'adeguamento per dovendo rendere praticamente le barriere eliminabili. Ora, chi è praticamente che se ne fa carico? E quando tu mi rispondi che non ci sono i soldi, io ti accuso e ti porto in tribunale e dici il problema di dove dovete prendere le risorse, ma lo devi gestire tu, amministratore della mia città, tu amministratore della mia circoscrizione. E se ti delimita questa responsabilità, io ti faccio una guerra fino a quando la legge non me la fai applicare. E non ti devi fare dopo significa che io in ogni caso ti perseguo nelle sedi giudiziarie per una inosservanza della legge. Allora certo. Chi è un attimo, ragazzi, chiede non è intervenuto, ci sta pure se fare. No, scusami, chi sei tu? Un attimo, andiamo tutti con calma, vai a chiudere, Ernesto, vai a chiudere. Un attimo solo, Vincenzo, faccio concludere un attimo, Ernesto, poi deve pure parlare Stefani, che sicuramente ci vorrà dire delle cose, perché sta studiando delle cose sulla 104. Vai, Ernesto. Piano piano, aspetta, fate concludere Ernesto, noi parliamo tutti quanti, vai Ernesto. Nella regione Campania sono stati stanziati 3 miliardi di euro, saranno stanziati 3 miliardi per quanto riguarda i posti, e io vorrei che una volta tanto, visto che ci stanno 7 regioni al nord, e qualche progetto che interessasse i loro disabili, che mi sia portato. Io ho dato un là a Gennaro Di Piano. Gennaro, non so se ne ha parlato a me, o se no potrebbe essere fatto, almeno portato avanti la persona di Gennaro. Grazie Ernesto, scusami un attimo, ci sono, vorrei sentire un attimo, stava intervenendo, prima facciamo parlare che non hanno ancora parlato, Vincenzo Frattini e poi Stefania Palermo, vai Vincenzo. Buonasera, è la prima volta che parlo di questo, mi rendo conto, per esempio, che a molte di voi interventi è stato Palermo, chi è Palermo? Sale giù e Saverio Giuliano. Perché secondo me ha centrato una questione molto importante, che poi, tra parentesi, è anche patrimonio dei paesi più civili, un patrimonio comune, cioè quello che se un responsabile non è in grado di reperire i fondi attraverso le sue manovre per soddisfare un'esigenza di legge, va bene, ma noi dovremmo o si dimette e se ne va perché non è capace, oppure può essere benissimo perseguito legalmente per un risarcimento danni. Mi spiego che intendo dire. Cioè, quindi lo si può portare in tribunale e chiedergli un congruo risarcimento danni. Per cui i referenti politici e amministrativi davanti a una sentenza del genere sicuramente inizieranno a ragionare in modo diverso, pur vedendo il disabile come un problema, una scocciatura, diranno: aspetti, chi se lo fa male, è meglio che mi sto attento. Altrimenti, fino a quando le leggi non vengono applicate e nessuno fa niente, la legge come se non esistesse. Mi spiego che voglio dire. Uno, due, volevo dire anche un'altra cosa. Io mi rendo conto che pronto? Vai, Vincenzo, vai. Allora, che la disabilità è un universo e ce ne sono tanti tipi e tante, diciamo così, forme diverse. Io per esempio rappresento una disabilità quella mentale, su cui in Italia è un po', diciamo così, a macchia di leopardo la sua trattazione, la sua interpretazione e la sua funzione. Per esempio, come? Vai Vincenzo, vai. Vai Angelo, è entrato anche Angelo Di Cristo che era caduto, vai Vincenzo, no, vai. Devo sapere che... Certo, Teresa, ti sentiamo, vai Vincenzo. Allora, volevo sapere, io con chi posso, dato che è la prima volta che vorrei essere informato in merito alla disabilità mentale, se ci sta qualche iniziativa, qualcuno che se ne occupa in particolare, perché questo è un discorso molto vasto, in quanto l'Italia è come se fosse divisa in due. Da Roma in su ci sono 33.000 soggetti disagiati a livello psichico che lavorano e vengono inseriti nelle strutture lavorative e guidate poi da altri lavoratori che le affiancano, e quindi loro, la loro terapia è quella. Cioè il loro inserimento nella società è quello. Invece da Roma scendere giù, per il passato e tutt'oggi, proliferano i cosiddetti centri di riabilitazione, che è una vera truffa. È una truffa, è uno sperpero di denaro pubblico. Prima perché non hanno mai... volevo terminare, Vittorio. Prima perché non hanno mai abilitato nessuno, va bene. Secondo, a Napoli si dice una storia intrattenimento. In realtà l'unico scopo di queste associazioni e organizzazioni è quello di prendere i soldi dalla regione. Poi del resto, allora conviene che questi soggetti, va bene, i cosiddetti disabili o disagiati, rimangono nella struttura, perché se per caso loro fossero veramente, diciamo così, guariti, ecco, diciamo, va bene, chiaramente loro perderebbero il finanziamento, e quindi diventa un cane che si morde la coda e non affrontano mai il problema dell'integrazione del disabile specifico. Adesso chiedo se ci sta qualcuno che ha affrontato questo problema, E perché io tra parentesi faccio anche parte di un'associazione, la NOOS, che prevede la formazione di gruppi di lavoro per la formazione di cooperative in cui ci siano il 6% di normodotati, che però sono disagiati socialmente, che sono disoccupati, e il 33% invece è previsto l'inserimento di soggetti, va bene, specificamente disagiati. Però fino alle istituzioni, fino ad oggi abbiamo trovato un muro. Spiego. Grazie Vincenzo, senti, io diciamo, noi qua un poco, diciamo, il nostro gruppo, come un po' forse vi sarai anche informato tramite la pagina, un po' la pagina Facebook, cioè noi qua. No, io non ce l'ho la pagina, noi, non ci posso parlare. Ma io sono diciamo la pagina Facebook, io sono Gennaro Giuliano, la pagina Facebook, diciamo che la gestisco io e si chiama Disabilità e Dintorni Campania, però ti volevo dire, Vincenzo, che cioè, il mio ruolo è quello di cercare di aggregare, di mettere tante persone con le loro professionalità, cercando insomma ognuno di poter dare un contributo per poi dopo poter aiutare, diciamo, con queste tematiche. Mo per esempio te lo rimango nella messaggistica, dice, te lo rimango dopo nella messaggistica, volevo soltanto se sta ancora Stefania in linea, che non ha, fino adesso non ha parlato, la volevo un poco far intervenire, perché Stefania in questo periodo mi disse che stava comunque studiando soltanto sulla legge 104 e c'erano tutta una serie di anomalie normative che, diciamo, non venivano applicate. Stefano, ci vuoi un pochettino dire qualcosa? Grazie. Vai, vai Stefania, a te ne vai. Da quindi non c'è scritto. Sostanzialmente se si sottrae dall'applicazione di una normativa che può generare un danno, non ha responsabilità di parte. Il problema è questo, si è accavallato. Chi è? Vai, vai Stefano. Un attimo Stefano, ci sta Angelo che ti vuole replicare, vai Angelo. Ragazzi, non parlate tutti insieme perché non si capisce niente. Saverio, scusami, aspetta, non si capisce niente, ci stava un attimo Angelo che stava rispondendo, sennò ci accavallamo e non si capisce niente. Vai Angelo. Grazie, io purtroppo devo andare a prendere mia figlia di Capecchio. Vabbè, un abbraccio e grazie Stefania, ci aggiorniamo alla prossima, grazie per la partecipazione. Ciao bella, ciao. Io vado via. Chi è che va via? Ah, ciao Vittorio, ci sentiamo, un abbraccio, ci aggiorniamo, ciao caro. La vedo la prossima volta perché vedo che sono più importanti gli altri interventi. Ti saluto. Ciao Vittorio. Allora, chi sta intervenendo? Ragazzi, chi sta intervenendo? Stava intervenendo Stefano, purtroppo... Dalla via perché... Angelo, Stefano è rimasto i saluti, vai. Allora, posso? Vai. Perché c'è la problematica della legalità, no? Perché le leggi non sono facili in modo, diciamo, coerente, non ci sono le sanzioni, però per quanto concerne la discussione del superamento di materia, delle barriere architettoniche individua, diciamo, responsabili perché si produce poi c'è pure dentro dei lavori e che non è questo l'adeguamento per dire il locale non è abitabile o agibile e quindi ci si prevedono anche una ammenda, non è un granché perché si parla all'epoca ancora in vive dai 10 ai 50 milioni. Certo. Però ecco, però il problema qui ritorna alla legalità. Allora, per quanto concerne la legalità, le leggi, il cambiamento dell'adeguamento e tutto, noi dobbiamo, come dire, rapportarci con i nostri studenti. Sì, vai tranquillo. Però poi che mettiamo comunque con coloro che vogliono fare per quanto riguarda poi diciamo noi eravamo arrivati a un punto che potevamo manifestare con un gazebo con delle forme di ma certo, diciamo soltanto Angelo, il fatto diciamo del gazebo praticamente non dico che a manifestare anche creare la quantità di persone che hanno avuto una volta c'è quasi sicuro le carriere siamo anche tornati a fare no, ti voglio spiegare questo, Angelo. Allora, praticamente, con la problematica insomma, che stiamo andando incontro sul fatto diciamo, di questi gazebo che si possono fare e non si possono fare, allora da questo punto di vista poi diventa un pochettino, diciamo, al momento un po' problematica come cosa, capito? Dobbiamo accettare per una cosa che non possiamo fare anche per tantissimo, facciamo così in un flesso modo qualcosa che ci lasciamo pensare. Certo. Comunque tutto, tu lo sai Angelo, qua è tutto un work in progress praticamente, siamo tutto diciamo... Però Angelo, scusa, io volevo fare una precisazione. Noi qua dobbiamo praticamente mettere in partire con la visione di stabilire, diciamo, quali sono i punti su cui ragionare, quali sono, diciamo, gli studi adeguati per operare su determinate consapevolezze delle disponibilità amministrative, e poi chiaramente in effetti puntare sulla realizzazione di un programma da presentare. Questa azione deve essere comunque comunque forma disponibile con un'altra voce della sì. Allora stavo dicendo questo nostro focal point deve prendere a mio avviso in esame delle finalità. La finalità qual è? Stabilire quali sono praticamente gli aspetti ad oggi, i punti sui quali si può lavorare per cercare di ottenere l'attuazione concreta di una determinata fascia di diciamo, normative sul problema della disabilità. E si chiede praticamente quali sono le concrete possibilità che gli enti hanno per attuarla, perché altrimenti noi per esempio i sognatori e ci stanchiamo pure quello che ci stanchiamo perché in effetti a furia di dover dire ma questo dovrebbe farlo in comune allora ci passiamo praticamente con l'idea di una mancanza della consapevolezza di chi non si diritti e soprattutto quello che dicevo prima io e che giustamente anche Stefania Palermo precisava. Se noi non sappiamo quali sono gli obblighi, i vincoli delle amministrazioni, quali sono le responsabilità alle quali noi possiamo imputare coloro che hanno questo compito, tutto ciò quello che diciamo diventa praticamente fine a se stesso. Che non trova praticamente una canalizzazione dell'imputo legale istituzionale, intendo dire. Che ci deve essere a fronte di una nostra riflessione mirata per ottenere una determinata applicazione di un progetto e quindi legato ad una norma di legge, lo studio della fattibilità e soprattutto combattere con quelle istituzioni che negligentemente non vogliono dare questo sbocco, sapendo a voi quali sono le responsabilità giuridiche si deve passare dell'applicazione e quali sono le disponibilità che ci sono. Cioè se io so che c'è una disponibilità 100 legata per fare un determinato progetto per la disabilità, ragazzi, noi dobbiamo combattere materialmente affinché quelle risorse non vengano distratte, non vengano praticamente non vengano praticamente derubate, perché altrimenti noi continuiamo per essere dei semplici sognatori. Qua in un paese può essere legale, no? Cioè io posso chiedere tutto al mio paese, al mio governo, ma poi sta la mia intelligenza sta a capire qual è la fattibilità di ciò che chiedo. Allora, a mio avviso, praticamente dobbiamo avere la contezza di questi aspetti. Quindi formarci prima di tutto e ovviamente arricchirci per chi potrà, per esempio, adesso il giorno giustamente faceva delle considerazioni sane, perché lui ci dice ovviamente quali sono le persone che possono essere sensibilizzate, e soprattutto nella sensibilizzazione poi vincolare la responsabilità sia di chi è preposto a progettare, sia di chi è preposto ad attuare, che in effetti il vincolo di entrambi deve essere per noi materia, oggetto di studio, per capire quali pressioni come cittadini abbiamo il potere di effettuare. Poi, se le azioni vanno a buon fine o meno, questo dipende, come giustamente diceva Angelo, dipende dalla forza di protesta che noi riusciamo a mettere in piedi. Perché se aggrediamo 100 persone, 200, 100, che chiaramente cominciano a sollevare la problematica composta da me, perché c'era la liquidità, dopo che chiaramente cominciamo a strutturare anche un discorso di rappresentanza democratica che deve andare a interloquire con i capi istituzionali. Ragazzi, un attimo solo, perché non sento più Orfeo, se ci sei sempre. Un attimo, ragazzi, fate anche se intervenire a Orfeo, vai Orfeo. Vai Orfeo. Che non ci sono sostanzialmente sanzioni o modalità con cui è possibile fare pressione sulle amministrazioni. Un attimo, Teresa, aspetta, sta parlando un attimo Orfeo, poi dopo parli io su. Vai Orfeo. Vai Orfeo. Ragazzi, silenziatevi con il microfono, altrimenti non ci sente, vai. Perché i rumori di fondo di casa non ci fanno ascoltare. Vai, Orfeo. Li ho visualizzati, io feo. Ma li posso visualizzare tutti? Sì, sì, è nella multichat dove siamo tutti quanti praticamente. Uno di questi multi, che se vedete lì, che parla del comune che rischia il commissariamento, rischia proprio, se lo aprite un attimo quello là, rischia proprio il commissariamento perché. Nella chat di Skype? Sì, nella chat di Skype, dove praticamente siamo tutti quanti. Sì. Ragazzi, non parla tutti quanti insieme, altrimenti non si sente niente, vai Orfeo. Perché praticamente la norma dice che in caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge, la regione esercita il potere costitutivo disponendo la nomina di uno o più commissari. Ma aspettare, se dici che due, per cui ci sono due chat, se ci produrrà. Allora. Piano piano. Vai Orfeo. Dimmi Ernesto, scusami un attimo solo. Ragazzi, dobbiamo parlare una alla volta, altrimenti non si capisce niente. Fate parlare vai Orfeo. Per entrare nella chat di Skype, come si fa? gente, ok? Soltanto mentre che sta parlando qualcun altro, disattivatevi anche il microfono, perché altrimenti si sentono i rumori di fondo delle vostre camere. Va bene? Sì, sì, l'ha postata Orfeo. Un attimo solo, Vincenzo, facciamo finire Orfeo, altrimenti non si capisce niente. Vai Orfeo. Va bene. Vai Orfeo. Allora, io metto nella chat un'altra volta il video a cui faccio riferimento, che si trova anche nella legge appunto dell'89, e cioè riguarda... adesso ho tagliato a mettere il pezzo che riguardava, però sostanzialmente si può commissariare, da parte della regione può commissariare quell'ente pubblico, in questo caso il comune, che non ottenga da un obbligo di legge. Questo è in generale il principio attraverso il quale si esegue un commissariamento, cioè pensiamo ai commissariamenti dei comuni e degli organi tecnici quando ci sono delle infiltrazioni camorristiche, di mafia e queste cose qua. Siamo portati a pensare allo scioglimento della giunta, eccetera. Sono più questi i momenti in cui noi pensiamo allo scioglimento o comunque al commissariamento di un comune. In realtà qualsiasi cosa che non venga, la legge è questa, sostanzialmente andrebbe approfondito con un legale, qualsiasi atto obbligatorio per legge, quindi qualsiasi atto obbligatorio per legge che però non venga si va alle procedure di commissariamento, non necessariamente le procedure di commissariamento di tutta la giunta quindi del comune, ma anche delle strutture tecniche ad opera di funzionari regionali. È chiaro che si tratta di una misura estrema, però potrebbe essere una delle leve da utilizzare per poter far muovere le amministrazioni. Però io la cosa, diciamo, che ci tenevo a dire, a entrare postato, non so se avete visto, la definizione dei tema presa da Wikipedia, perché dovremmo rimanere aderenti all'oggetto che ci siamo dati in questa discussione autonomamente, perché molti hanno parlato di sensibilizzazione, c'è un ingegnere che ha parlato di sensibilizzazione a livello delle università. Questo è verissimo, ha ragione l'ingegnere, c'è poca sensibilità nei progetti. Però l'una cosa non, secondo me, elimina l'altra, cioè le operazioni di sensibilizzazione e di diffusione della sensibilità in generale attraverso delle mobilitazioni o atti che possono essere fatti a vari livelli sono sempre utili e vanno fatte, e quindi non dobbiamo sottovalutarle. Però i PEPA sono uno strumento di finalità, sto solo leggendo, di conoscenza delle situazioni, certo, di impedimento, cioè di rischio e ostacolo per la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici. Questi piani rappresentano un punto di partenza per la redazione dei piani pluriennali di abbattimento delle barriere architettoniche. Ci tengo a riportare questa definizione, perché i comuni non hanno i piani pluriennali di abbattimento delle barriere architettoniche, quindi la richiesta va fatta ai propri comuni per sapere se hanno attivato, come dicevamo all'inizio, questi piani pluriennali per l'abbattimento, perché all'origine di tutto sta la attivazione da parte del cittadino nelle richieste da parte del proprio comune, perché questo è collegato. Un attimo, ragazzi, siccome che mi dicono, un attimo, Teresa, un attimo, siccome che mi dicono che l'audio per tutti quanti va e viene. Ragazzi, allora io cioè, termino la chiamata e vi richiamo tutti, perché dice che l'audio va e viene, ok? Termino un attimo la chiamata e vi richiamo tutti, altrimenti ci sta... Tu devi andare, Angelo, va bene, ci aggiorniamo. Certo. Ciao, Angelo. Allora, vediamo un pochettino, può essere che uscendo qualcuno, dalla chat, diciamo si sente un po' meglio l'audio. Come andiamo, ragazzi? Ho capito. Sì, sì, vai, perfetto. Poi cerco anche di fare intervenire anche Teresa ed Ernesto, che diciamo... Volevo completare per poter. Quindi, l'osservazione che ho fatto era questa, che esistono sostanzialmente delle... Sì, è vero, scusa, per fare una sincronizzazione, per cui sarebbe ottimale che tutti vivessimo, poi il giornale ci chiama uno a uno. Allora praticamente Ernesto devo chiudervi e vi richiamo tutti quanti? Rientro in Skype. Ok, allora chiudo Skype e rientro e vi richiamo. Allora. Visto. Ernesto? Dici. Quando chiami, come essere qui a tutti che non innescassero la cassa. Ah. Un attimo soltanto, un attimo solo. Allora che praticamente li aggiungo tutti. Allora ragazzi, non innestate la webcam. Altrimenti praticamente allora Orfeo, un attimo, è un po' una da volte. Sto un attimo inserendo man mano, vi sto inserendo un attimo man mano tutti quanti. Allora seleziona, aggiungi un attimo solo, che no, piano piano li mettiamo tutti quanti. Seleziona, aggiungi. Ragazzi, disattivatevi la web, il video, rimaniamo solo in audio. Allora, mi sentite? Io sì. Perché altrimenti con la banda... Ok, Orfeo. Teresa, Teresa, ci sei? Sì, mi vedete? No, stiamo disattiva il video, perché altrimenti andiamo problemi con la banda, quindi andiamo solo in audio. Ok. Va bene? Allora, ragazzi, ascoltatemi. Dici, Teresa. Qualunque loro siano, anche se non fossero decisi. Allora, io credo che per quanto riguarda le barriere architettoniche, una proposta da inserire nel programma, il reperimento di fondi strutturali PEGR e POR, individuando attraverso bandi di concorso tutti gli ingegneri della data vaga. E che sei lo spiritorno, no? Si sente un ritorno audio. Aspetta, forse perché ho inserito anche Umberto, perciò. Aspetta, Teresa, diciamo, perché ho inserito anche a Umberto, molto probabilmente, perciò si sente il ritorno. Teresa, tu hai avuto modo di sentire quello che ho detto io su questo argomento, dei porro e febbre? Sì, ok, va bene, vai. Ma questo che vuoi compartire? Io credo che è inutile parlare di leggi che non vengono applicate, di cui l'Italia è stracolma. Allora che direi? Allora io direi che l'unico modo per poter risanare questa tragedia è quella di poter, quando sarà il momento di eventualmente avere degli amministratori che ci ascoltano, soprattutto a Napoli, di chiedere, cioè di fare questa proposta, di far partire tutto o la possibilità di reperire tutti i fondi per e porre a disposizione, utilizzando le eccellenze monetane e campane. Subito senza attribuire alcun tipo di, come si dice, di finanziamento, cioè di consulenza, ma il progetto che riesce a reperire più fondi per poter realizzare un abbattimento decente delle barriere architettoniche a Napoli, in quasi tutti i quartieri, cioè quindi a Tappeto, reporre il 4% dal progetto che lui stesso ha presentato. Quindi questo che cosa, questo per l'altro è una cosa che hanno anche realizzato al Comune di Venezia. Allora, cercare praticamente di fare in modo che l'amministrazione investa a costo zero nelle consulenze, due, tirare fuori tutte le eccellenze e la competitività che purtroppo oggi è venuta a mancare tra le nostre eccellenze campane e napoletane, e quindi metterlo proprio come punto di programma. È inutile, diciamo, dire vorrei fare, cioè che cosa vogliamo fare passivamente, tanti soldi non ce ne stanno. Dovunque andiamo a buttare, dove i soldi non ce ne stanno, il problema dei disabili resta dei disabili, quindi io direi di portare come proposta concreta al programma questo punto. Voi siete d'accordo per le barriere architettoniche? Ma io, come detto, il problema è sempre se è una cosa fattibile o meno, poi sentiamo anche gli altri, vai Orfeo. Certo. Ernesto, sentiamo pure Ernesto che dice, vai. Vai Orfeo. Se ho capito bene, tu intendi fare un'interpellanza regionale per sapere se sono stati stanziati, se sono stati stanziati i fondi relativi al 2000, fino al 2007-2013 e poi magari successivi, che non sono stati ancora però erogati in Europa. 2007, però non sono state ancora proprio deliberate a livello europeo, quindi meglio sapere prima i fondi precedenti. 2014-2020? Sì, dico meglio sapere, siccome non sono stati ancora erogati questi nuovi, sapere quali erano gli stanziamenti relativi ai fondi 2007-2010. Poi anche... Ma vuoi sapere come funzionano i FED, i POR? Aspetta, io personalmente lo so, però io sto dicendo quali erano i fondi, se mi fai finire di parlare, i fondi relativi ai precedenti POR FED, per il semplice motivo che se i comuni, se sono arrivati questi soldi e sono stati eventualmente dirottati per altre vie, già solo questo fatto può essere attaccato da tutte le associazioni, da tutti i cittadini, perché se sono soldi vincolati, allora c'è una iniziativa politica che può essere presa, che ovviamente andrebbe a valere sul successivo finanziamento, quindi poniamo le basi per poter dire. Io volevo capire se Teresa nella sua proposta è un controllo, allora il problema è questo, noi oggi non sappiamo, mentre altri comuni, altre regioni hanno fatto, mandato un link relativo all'Emilia Romagna, hanno mandato l'Emilia Romagna, adesso lo rimando per farvi capire di che cosa stiamo parlando, se lo ritrovo. Fondi Barriere Emilia Romagna, Fondi Barriere hanno fatto di loro iniziativa hanno costituito una loro commissione per vedere che fine hanno fatto e come sono stati spesi i soldi pubblici. Ecco perché. Quindi noi possiamo fare tutte le azioni che vogliamo, ma se non esistono delle strutture amministrative che in qualche modo facciano la rendicontazione delle risorse, ci diranno sempre che i soldi non ci sono. E invece non è vero che i soldi non ci sono. I soldi ci sono, ma vengono spesi male o in altre direzioni. Quindi la prima cosa che dovremmo chiedere è: ci sono questi soldi? Dove sono andati a finire? Che questo è il concetto di fondo. Questo è che volevo dire. E sì, come possiamo anche interpellare i parlamentari europei. Questo come orientamento di fondo, ovviamente. Poi la proposta va bene, però l'orientamento è capire perché fino adesso le regioni non si sono attivate, ma non solo a Napoli, ma in qualsiasi comune della Campania, o pochissimi, non lo so, quanti di voi sanno che sono stati applicati i SEPA? In quali comuni della Campania si è fatto il censimento delle barriere architettoniche? E voi sappiate quanti comuni si è fatto il censimento delle barriere architettoniche? No, non lo sappiamo. Ma in Campania a me mi risulta pochissimo. Database che ci consente di avere informazioni di base. Vai Ernesto, aspetta. Vai Ernesto. Sentiamo pure Ernesto, vai Ernesto. Mi sentite? Un attimo, Andone, sì, ti sentiamo, vai Ernesto. No, finalmente si sente qualcosa. Allora, senti un attimo, Orfeo, prima c'è stato quanti soldi. Allora, la problematica non è quanti soldi. De Luca Vincenzo che ha risposto, cioè che in Campania, al 31/12/2015, c'erano ancora 280 milioni di euro che non coprivano nessun tipo di progetto. La questione avreste potuto presentare un progetto riguardante un abbattimento delle barriere architettoniche? No. Perché no? Perché in Campania, quando si fanno l'inizio di POR, si mettono le linee direttive. Il problema è che i disabili nelle linee direttive dei fondi fino a 2013-2015 non gestivano proprio. La stessa cosa si dice per quanto riguarda i successivi fondi. Se qualcuno non va da chi emana le linee direttive e dice sì, no, ci stanno pure i ritardi, i progetti che vengono presentati che riguarderebbero una linea che abbattimento, barriere di centri di ritrovo per disabili, bla bla, tutti i progetti che riguardano i disabili vengono bocciati dalla Commissione. Perché li vengono bocciati dalla Commissione? Se non rispettano le linee guida che hanno emesso i dirigenti quando sono venuti qui. Capito qual è la situazione? Sì, ho capito, però le linee guida tengono loro, quindi mi sembra strano. No, sapete, sto parlando delle linee guida regionali. Lascia stare quello europeo è una cosa. Tu le linee guida regionali, se non presenti i progetti secondo quello che stanno dei dirigenti, che sai come funziona qua in Campania. Il dirigente conosce delle aziende, fanno un progetto acustico, io faccio approvare. Capite come funziona? Voi pensate che voi presentate i progetti e quello ve li approva, voi state sulla luna. Allora andate a vostri progetti. Allora ti dico, guarda, facciamo parlare di cose serie, parlando di cose serie. Io stamattina sono andato a parlare con una carissima amica in quadro, la situazione è nera. Allora, se noi vogliamo parlare di cose serie, parliamo di cose serie. Se vogliamo parlare di chimere, allora così dice tutti voi. Domani faccio una pillola che mi fa togliere almeno Paolo e Luigi, almeno Paolo e Concia, che dice. Però se vogliamo parlare di cose serie, parliamo di cose serie. Punto. Soldi non ve ne danno, perché i soldi non stanno nelle linee guida dei poveri precedenti. E vi dico anche di più. In Campania ci sono rimasti ancora 280 milioni di euro da spendere, perché l'invito di Deruba non è stato accettato da nessuno. Perché i dirigenti regionali non stanno contattando, per farlo. Allora, noi dobbiamo presentarci a dire nostri, a qualcuno al Consiglio regionale, guardate, quando verranno emanate le linee direttive per come si dovranno spendere i fondi che vengono dall'Europa, si mette in considerazione che c'è un'agenda che non ha